La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci qua come sempre il sabato a raccontarvi tutto il cinema che c'è su Radio 24. Franco D'Assisi in studio e non sono da solo. Non sarà una puntata facile, questo lo so già, perché è venuto a trovarmi un amico, nonché un collega. Nonostante sia interista, vabbè, non può andare sempre tutto bene. Lapo De Carlo è qui con noi. Ciao, stavo avanti per soffrire. Ciao Franco, posso chiamarti Franco? Sì, vabbè, stavolta sì, dai. Ciao D'Assisi, come stai? Ecco, molto bene. È venuto non perché lui infesta un po' gli ambienti, sì, in cui arriva, ma stavolta l'ha fatto con un'idea cinematografica in testa, che è quella di Milanifesto, che è una mostra di manifesti cinematografici su film che hanno comunque avuto come sfondo Milano. È un'idea molto bella che itinererà. Ecco, come dico, hai visto, l'ho imparata bene. Per un po' di tempo è possibile vederla a Milano, ma ne parleremo fra poco di questa mostra. Ma siccome lui è uno che va al cinema, allora insomma tendenzialmente vado al cinema, sì, anche, ecco. Anche perché il primo film di cui andiamo a parlare, se non sbaglio, esatto, puoi fare tu una trasmissione, vado a casa. Benissimo, ben trovati, questa è Radio 24. Ah no, scusa, più forte di me. Allora sì, parliamo di Ted, l'orsacchiottone porcellone e sboccato che in America aveva cominciato molto bene con il primo film, di cui questo è un seguito, anche a livello di incassi aveva cominciato molto bene, e Ted 2 sembra andare nella stessa direzione. Ascoltiamo una clip e ne parliamo. E vissero felici e contenti esiste solo nelle favole. Nonostante ciò, un orsacchiotto parlante sta per sposare la sua fidanzata. Ho una notizia bomba. Io e Tammy Lynn avremo un bambino. Fichissimo, aspetta, e come faccio? Ci occorre un donatore di sperma. Oh mio Dio, Teddy, guarda qui. Dice che se vogliamo avere un bambino devi dimostrare di essere un essere umano in tribunale. Una bella fregatura. Combatteremo, troveremo un avvocato e faremo causa al governo per i tuoi diritti. Ti hanno negato gli stessi diritti degli altri solo perché sei diverso. Vorrei farti qualche domanda di prova. Avanti, fatti sotto. Ti consideri un essere umano? Ho piacere. Accolta. Potremmo fare un avvocato. Allora, il clima è il solito, mischia un po' il surreale e anche un po' il maschile forte alla Notte da Leoni, per intenderci, con... Insomma, del resto, come fa a stare in piedi un film dove un uomo adulto ha come miglior amico un orsacchiotto parlante? Insomma, veramente devi essere molto complice. Ecco, dicevo, mischia un po' quelle atmosfere lì con anche quello del film americano nonsense, della comicità demenziale, se vogliamo. Questo secondo episodio, dicevo, nella traccia del primo, forse addirittura con qualcosina di più, Lapo, tu di meglio, visto? Sì, io rispetto al primo, io non sono uno di quelli che ha amato Ted, non so se si può dire, ma non l'ho amato. E il secondo invece l'importante pure. È che lui non abbia amato Ted. No, tuttavia è un film migliore del primo, a mio modo di vedere, ha delle battute migliori, ha sicuramente anche un cast importante, c'è anche Liam Neeson, ovviamente oltre a Mark Wahlberg c'è anche Amanda Seyfried. È un film che ha delle trovate notevolissime, alcune siamo dalle parti un po' di tutti pazzi per Mary, tanto più che poi comunque il cinema americano ha preso un po' questa deriva del cinema un po' grottesco, esagerato, con trovate sempre ben sopra le righe. Ecco, siamo un po' lontani dai tempi in cui c'erano Goodbye Amore Mio, oppure anche per andare più vicino a Una Poltrona per Due. Il cinema americano e la comicità americana ha preso un po' questo tipo di direzione più legata ai giovani e al tipo di comicità estrema. Interessante comunque, come dire, mettere dentro uno sacchiotto di peluche tutto quello che può essere un po' una sorta di nostro alter ego. Ecco, questa forse è la trovata più geniale, che è la prima poi attorno alla quale i film e questa micro saga che sta crescendo piano piano si è sviluppata. A questo punto, visto che Ted 2 è stato promosso e quindi è sicuramente il titolo forte, almeno a livello di botteghino, fra quelli che potrete vedere questa settimana al cinema, andiamo a sentire come vanno le cose sulle strade del weekend. Fra poco torniamo insieme per parlare di Ruth e Alex. La Rosa Purpurea. Eccoci qua ancora, La Rosa Purpurea, seconda parte del nostro programma. Ruth, come dicono quelli che se ne intendono. Sì, ma noi italiani diciamo Ruth. Vabbè, adesso i nostri ascoltatori sono molto esigenti su questa cosa. Scusa, là, può non fare lo spirito. Non lo faccio più. È in collegamento con noi Boris Sollazzo, che abbiamo ripescato da qualche parte nell'Italia centrale, perché Boris, insomma, è un collega molto quotato ed è andato al Festival di Pesaro, di cui tra l'altro parleremo fra poco, e adesso lo becchiamo con le mani sul volante. Boris, ci sei? Esatto, nella ridente Valtopina. Valtopina, pensate. Ecco, una puntata che è partita così non poteva che andare in questo modo. Allora... Non è una battuta di Ted 2, però esiste. Allora, parliamo invece di un film molto molto più serio, nel suo incedere, anche nel cast che annovera Morgan Freeman, Diane Keaton, insomma non proprio dei giovanotti, degli attori molto affermati. È un film che si intitola Ruth e Alex e noi sentiamo questa clip. Io vado a pulire casa, ok? Ma no, lo facciamo domani. I primi arrivano domattina alle 9. Ho letto di queste visite libere, vengono per rubare. Inchioderò i mobili al pavimento. Devo stendermi in una camera per sapere che effetto fa poi dormirci. Ti dispiace spegnere la luce? Che significa cameretta? Che vuol dire? Che hai letti a castello. Nel caso tu dormi sopra, chiaro? In fondo abbiamo sempre fatto quello che volevamo. Ci siamo sposati quando era ancora illegale in 30 stati. Cos'è trovare casa in confronto a quello? Dammi il 5. La cosa bella di questo film è che racconta un amore lungo una vita di due persone in là con gli anni, ma che si amano come il primo giorno, che hanno vissuto la loro vita a Brooklyn prima che diventasse un quartiere di gran moda come invece è diventato adesso, e che quando capiscono un po' che il quartiere si è modificato e potrebbero tirar fuori tanti bei soldini dalla loro casa, si mettono un po' in mano a un'agenzia immobiliare. Le prime visite, diciamo, di potenziali clienti un pochino li dissuadono rispetto a quello che è il loro intento. Boris, dicevo, la cosa bella di questo film, a mio modo di vedere, è il taglio, cioè il fatto di aver raccontato una storia di persone anziane, però stavolta di averlo fatto senza per forza metterci dentro, diciamo, quel carico di tristezza o comunque di tematiche importanti, spesse, ma di essere stati sui toni leggeri della commedia. C'è sicuramente lo sguardo all'indietro e in avanti, però c'è con il sorriso, e questo ci fa pensare anche che la commedia americana oggi cerca sì il pubblico della terza età, perché è un target di pubblico importante, ma lo fa a questo punto tout court, senza per forza dover pensare a storie sull'Alzheimer o a storie, diciamo, di morte imminente. Lo fa con il sorriso, che è la chiave poi per portare la gente al cinema. Ecco, non è né Cassavetes né Sarapolle, intendiamoci subito, così capiamo subito qual è il genere. È quel classico film Ruff e Alex che lo spettatore commenta alla fine con due aggettivi che io non amo molto, no? È un film delizioso, è un film chino, però è vero, cioè, ha una sua eleganza, un suo garbo, che a me ricorda un film molto diverso, che però ha molti punti di contatto, che è Marigold Hotel, no? Cioè, la necessità di raccontare un'età nella sua normalità. Diane Keaton e Morgan Freeman sono due che in gioventù sono stati meglio gioventù, che hanno affrontato anche la segregazione e l'hanno superata in nome del loro amore, e che adesso sono diventati due vecchietti squisitamente radical chic, diciamo, no? In un quartiere che appunto diventa ambito, in una realtà che è molto protetta, molto tranquilla, con un amore che gli fa da cuscino, da coperta di Linus, e che è molto tenero. E devo dire che questo modo di raccontare, come dicevi tu, è un modo che viene sposato con grande coerenza, cioè il regista non ha l'esigenza di mostrarci una storia che ci prenda a pugni nello stomaco, ci vuole deliziare con un racconto che nasce per il puro gusto di narrare un amore, un sentimento, vari piccoli incontri, piccoli cambiamenti, vuole raccontarci un mondo che è cambiato e lo sguardo un po' stanco, un po' abitudinario, un po' rutinario con cui questi due vecchietti, vecchietti non sono perché stanno più in forma di me, diciamolo, con sguardo appunto anche un pochino radical chic, un po' snob, e secondo me alla fine diventa un film molto interessante, perché c'è tutta una piccola meta alta borghesia, questo mondo lo ha percorso, e lo ha percorso con questo garbo, con questa capacità di raccontarsi, di rappresentarsi senza che non avendo cambiato il mondo, ma avendo cambiato un po' il proprio mondo. E non c'è mai un picco verso il basso in questo film, c'è sempre un livello medio-alto, e che lo rende un film che alla fine soddisfa soprattutto il pubblico. È un film, alcuni lo definirebbero un film furbo probabilmente, secondo me è semplicemente un film che ha bene idea di qual è il suo pubblico e lo accontenta fino alla fine. E allora, questo è Ruth e Alex, Morgan Freeman, Diane Keaton nei nostri cinema, con questa commedia, seconda proposta cinematografica di questo weekend. Noi siamo arrivati al primo incontro con il film misterioso di oggi. Che io mi ricordi, ho sempre voluto fare il gangster. Beh, facciamolo risentire, talmente breve. Che io mi ricordi, ho sempre voluto fare il gangster. Allora, Boris, tu non puoi rispondere. Boris non può rispondere. Lapo non può rispondere. Qui... Peccato perché avevo già... No. Qui devono rispondere i nostri ascoltatori che ci racconteranno che film è, ce lo diranno per email alla rosapurpurea@radio24.it e se l'hanno già indovinato, sono bravi, mettano anche il loro indirizzo perché qui ci sono due super cofanetti Blu-ray in palio per chi indovinerà per primo questo film che tu non puoi dire e che nessuno può dire. Ecco. Allora, però voi potete dirlo, anzi ditecelo. Allora a questo punto io vi ricordo che più tardi vi farò ascoltare un'altra traccia, magari la nostra redazione sarà stata un po' più magnanima e l'avrà tenuta un qualche centesimo di secondo in più. Andiamo avanti con le novità in sala perché il tempo corre e c'è Arnold Schwarzenegger che bussa alla porta. Papà, ti sei preso cura di me per tutta la vita. Ora non puoi fare più niente. Non c'è vita in me. Non venirmi a cercare, sono al sicuro, sto bene. Non dimetto nessuno con questo tipo di infezione. Papà! La quarantena è l'unica possibilità. Deve seguire le regole. Diventerà più aggressiva e pericolosa. Io farò qualsiasi cosa per proteggerti. E allora, un film che mischia alcune atmosfere, c'è il dramma anche, diciamo, etico sotto un certo profilo, attraverso forma di una pandemia che si sta prendendo un po' un'America interna e chissà quanta metafora c'è anche dentro questo ragionamento, ma c'è anche il dramma familiare, un padre, una figlia in pericolo. Però tutto questo scivola a un certo punto in una sorta di canalone horror, diventa un'altra cosa. È interessante vedere Arnold Schwarzenegger cercare, lo sta facendo anche con molta ironia da qualche anno, cercare una strada alternativa della sua carriera, e però stavolta lo fa appunto con un film che ha anche toni drammatici un po' più forti. Boris, operazione riuscita per Schwarzi, questa di darsi una terza dimensione drammatica? Allora Franco, io non so se, come ho già detto alla scorsa puntata, l'estate mi rende più buono, ma io trovo che sia un'operazione riuscitissima. Schwarzenegger è così in forma come quello degli ultimi anni, sia nei film più cialtroni che quelli più d'azione, che questo, che è un film, lo so che è difficile dirlo per un film di zombie, ma un film profondamente intimista e veramente con diversi registri, lo troviamo a duettare con Abigail Breslin e non sfigurare affatto, cioè uno che avevamo sempre definito un attore, diciamo, che volendo essere buoni veniva apprezzato per la sua fisicità, per ciò che rappresentava più che ciò che era come talento interpretativo, e qua invece dimostra una grande solidità anche espressiva, e devo dirvi che con la faccia che si ritrova in questo momento è veramente difficile dare delle espressività a quel volto, a quei lineamenti. E Contagious è un film davvero molto molto interessante perché prende qualcosa che ormai fa parte in maniera quasi ossessiva nel nostro immaginario, no? Gli zombie, l'atteggiamento complottista, l'odio verso un sistema che cerca in un futuro distopico di mettere tutto a posto secondo delle regole che non hanno nulla a che vedere con l'emotività privata delle persone, con la comprensione dei sentimenti, con il rispetto dei valori della famiglia. Quindi diciamo questo stato canaglia che è uno stato zombie anche lui, e ci riesce benissimo, perché poi la resistenza estrema, estremista quasi, di questo padre e di questa figlia che decidono in maniera quasi folle di combattere una febbre invincibile, la grande forza del film rappresentarla come tale ma anche portarla avanti come tale, ci porta di fronte a un racconto che ci prende in maniera molto potente e ci porta su un terreno che è assolutamente lontano dalla spettacolarizzazione, e diventa un film, a mio parere, quello di Harry Hobson, soprattutto nella seconda parte, è un film d'autore, cioè un film che tocca anche temi come quello dell'eutanasia in maniera estremamente originale e molto pesante e pensante. Quindi veramente Contagious io ve lo consiglio, perché La parte horror soddisferà gli amanti del genere, ma tutto il codè di scrittura e anche interpretativo dei due protagonisti vi emozionerà, non dico come mare dentro, ma poco ci manca, insomma. Ecco, vedevo Lapo scuotere il capo, non so se il contagio che è arrivato anche qua o se aveva un parere in mente. No, è un parere che devo dire si allinea a quello che ha avuto Boris. Tra l'altro è molto simile come tipo d'atmosfera a Walking Dead, per cui chi ha seguito la serie televisiva non può non amare questa, in cui c'è Schwarzenegger che evidentemente ha tratto beneficio dall'essere stato anche governatore, forse la vita politica lo ha anche maturato ulteriormente, posto che già in epoche passate attori considerati muscolari hanno recitato tra virgolette. Io ricordo Sylvester Stallone in Oscar, era davvero sorprendente. In questo caso Schwarzenegger già da 2-3 film mostra di avere una vena. A me era attoriale. Piaciuto molto The Last Stand, l'ultima sfida, per esempio, l'avevo trovato, perché lì lui recitava con il suo passato, lo aveva sempre lì alle spalle e continuava a duettare con il suo passato, però qui c'è un'operazione diversa, qui è un'operazione di attoriale to cure, è un'operazione dove certo tu sei chiaramente, empatizzi con Schwarzi. Soprattutto io adesso credo nell'esistenza degli zombie, hanno fatto troppi film per non essere vero, certo, sì, è assolutamente così. Bene, esisto. Con questa noi possiamo anche chiudere questa puntata, no assolutamente, chiudiamo solo questa seconda parte della nostra Rosa Purpurea, perché fra poco parleremo di Noi Siamo Francesco, che è una vera piccola rivelazione italiana. Restate con noi, ci sarà al telefono Gwendalina Zampagni, la giovane regista, ma vi assicuro già con una mano molto ferma in questo film non facile, però molto molto brioso. Radio 24 è al padiglione Cibus Italia a Expo Milano per una settimana con una programmazione da non perdere. Ti aspettiamo dal 29 giugno al 5 luglio con dirette e programmi speciali al padiglione Cibus Italia, dedicato alle eccellenze dell'agroindustria italiana e ai protagonisti del Made in Italy. Info su radio24.it. In collaborazione con Federalimentare e con il gruppo Cariparma Crédit Agricole. La rosa purpurea. Et tu cherches l'équilibre. Quand il tourne vite et tu n'y arrives jamais. Ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Le note di una delle canzoni, di quelle che rimangono proprio in testa della colonna sonora di Noi Siamo Francesco, il film di cui vogliamo parlarvi ora. Una storia molto molto interessante, perché parte da un concetto, un principio molto molto difficile da gestire al cinema, che è quello di una disabilità e di una prima volta cercata nell'amore, che sembrano, come dire, non combinarsi una con l'altra, però lo fa con il tatto e anche con il brio, con l'estro di non sfociare in un trattato di sociologia, ma di raccontare, facendo cinema, facendo buon cinema, di raccontare anche in chiave di commedia l'avvicinamento a una prima volta, che in questo caso semplicemente questa disabilità rende solo un pochino più lontana. Ma il cinema italiano si sta interrogando, quello più giovane si sta interrogando molto in questi ultimi anni su questo tema. Già quest'anno era uscito questo splendido Short Skin, per esempio, che raccontava più o meno un avvicinamento di questo tipo. In breve la storia: Francesco è un ragazzo, come dicevamo, disabile, ha 20 anni, è un ragazzo di grande talento e di grande spessore, ha una disabilità forte, cioè non ha le braccia, e questa sua disabilità lo porta a essere un po' meno come dire, convinto di se stesso negli approcci con le ragazze che incontra. Al suo fianco c'è un amico di sempre, Stefano, invece, che è totalmente estroso ed è fa per lui e fa per l'altro, se vogliamo, che cerca in tutti i modi di combinargli questo primo amore. Una famiglia alle spalle, padre e madre, che sono Elena Sofia Ricci e Paolo Sassanelli, divisi, ma forse senza neanche esserne troppo convinti. Brava Elena Sofia Ricci in questo ruolo di madre preoccupata da una parte che il figlio arrivi a compimento, ma che dall'altra parte però vorrebbe tutelarlo in tutti i modi. Insomma, come capite, è un castello non facile da costruire. C'è riuscita molto bene, devo dire, la regista Gwendalina Zampagni, che è in collegamento con noi. Ciao Gwendalina, benvenuta alla Rosa Purpurea. Ciao, grazie di avermi invitato, buonasera a tutti. Dopo aver visto il film, questo lo devo dire anche ai nostri ascoltatori, no? All'inizio chiaramente, poi c'è Lapo De Carlo qui con me, che insomma si occupa di cinema da tanti anni, si sa, nella comunicazione si cerca il nome importante, il nome nuovo. Dopo aver visto il film ho detto no, qui l'intervista è con la regista, perché questo è un film tutto tuo, Gwentalina. Grazie, ti ringrazio tantissimo. Allora, come nasce l'idea? Perché chiaramente in questo caso non è una domanda apripista o rompighiaccio, qui davvero, cioè, ci si chiede un po' come ti arriva questa idea che, lo ricordo, sotto forma di sceneggiatura nel 2010 ha vinto il premio Solinas. Sì, questa idea è arrivata conoscendo una persona che ha questa disabilità, anzi il Francesco che ho conosciuto e da cui ho lasciato il suo nome a sua dedica nel film, è un ragazzo che in realtà non ha né le braccia né le gambe, è un ragazzo scatenato, come dico io, nel senso che ha proprio una ironia, una voglia di vivere, e ascoltando la sua storia sia di vita ma anche d'amore, perché è sposato con una bellissima ragazza, ho pensato che non potevo non scrivere una storia un po' ispirandomi a lui e simile a lui, cioè veramente ci sono tante bellissime storie d'amicizia e d'amore di persone che hanno una disabilità più o meno grande, che riescono a vivere pienamente la loro vita, anzi a farci capire, a insegnarci a noi quanto spesso invece siamo noi che li limitiamo e ci limitiamo per delle piccolezze, invece loro sono molto più avanti di noi, ecco. Ecco, la cosa bella del film è che, come dicevo, va avanti e tu dopo 5 minuti ti sei dimenticato di questa disabilità, perché in fondo c'è un passaggio importante che riguarda il film, come dice Stefano in un certo momento a Francesco: abbiamo tutti paura poi di essere rifiutati, che quel bacio non arrivi, che quell'appuntamento non riesca. Non c'è bisogno di avere, come dire, una disabilità evidente per potersi e per doversi confrontare con queste paure. Certo, io in realtà sia ho voluto raccontare una storia, diciamo la storia di Francesco, della sua disabilità, ma anche in realtà mi ha permesso questo personaggio, in maniera un po' metaforica, di raccontare tutte le nostre paure di quando noi, che abbiamo semmai le braccia fin dalla nascita, però non siamo bravi a usarle, a ricevere, a prendere, a dare amore, perché comunque tutti noi abbiamo le nostre timidezze, i nostri blocchi, le nostre paure, chi più chi meno, e spesso, come anche Francesco ci dimostrerà e i suoi amici, che sono in realtà le paure più grosse, sono i nostri limiti che ci mettiamo con la mente, e non quelli fisici. Quelli in qualche maniera si può sempre trovare la forza e la possibilità di superarli. Ma che com'è? Perché non eviti domani sera, soli soletti a cena? Stefano, perché io non sono te? Scusi, che cazzo di risposta è, Checco? Vabbè, buonanotte, va. Ma perché ti incazzi? Perché tu la fai sempre troppo semplice. Certo, per te lo è. Invece, guarda un po', per me, non lo è. Te lo vuoi mettere in testa che io non sono come te? Io non sono come te! No, Francè, ora mi dispiace tanto deluderti, ma su questa cosa tu sei come me, come tutti quanti gli altri. Va. Guarda che tutti quanti se la fanno sotto prima di baciare una ragazza. Pure io, è chiaro, eh? Certo. E se non ci sei riuscito fino a mo', non te la puoi prendere con me, ma solo con te stesso. Ma che cazzo, che dici? Cazzo dici? E allora, grazie a Gwendalina Zampagni, ricordiamo, Noi siamo Francesco, nelle sale italiane, ben trovata alla Rosa Purpurea. Grazie, buon lavoro e un salutone a tutti. Siamo arrivati al momento allora di giocare di nuovo insieme, sentiamo la seconda traccia del film misterioso di oggi. Che ci trovi, De Puff? Tommy, non hai capito, lui vuole... No, aspetta. È cresciutello, sa quello che dice, eh? Che dici? Buffo come? Ti faccio ridere, sto qua per divertirti. È troppo buona stavolta la nostra redazione. Questa volta la clip era ben lunga e comprensibile. Allora, la Rosa Purpurea @radio24.it è il nostro indirizzo di posta elettronica. Scriveteci titolo e vostro indirizzo e provate a vincere una delle due copie in Blu-ray di questo film che sveleremo la prossima settimana. Allora, adesso noi ritorniamo a collegarci con Boris Sollazzo da una parte, però anche con Pedro Armocida, che è il nuovo direttore del Festival del Nuovo Cinema di Pesaro, uno dei festival, come dire, più importanti per il cinema italiano, sicuramente con la storia, il pedigree più ampio, che si è proprio concluso in queste ore, per provare a fare un po' un resumé di quello che è stato il festival, di quelle che sono state anche le tematiche trattate nel festival. Boris, tu ci sei con noi? Altro che. Eccoti, tu sei di ritorno, sempre a Valtopina, sempre fermo lì, ti vedo in mezzo all'autostrada. E chi si muove da lì? Chi si muove da lì? Ecco, fermo lì, e invece stiamo cercando di raggiungere anche Pedro. Intanto dici brevemente, perché abbiamo poco tempo, una cosa tu che eri lì nel consiglio scientifico, diciamo così, di questo festival, per fare un po' il punto sul cinema italiano, cosa si è visto, cosa è passato, come ne sei uscito a livello di sapore da questo festival di Pesaro? Allora, io devo fare una confessione da comitato scientifico. È stato un festival di rottura più di quanto mi sarei aspettato quando l'abbiamo messo giù nelle idee e nei fatti, nel senso che, e qui faccio i complimenti a Petra, perché è stata la sua lungimiranza, la sua visione lunga a permetterlo, il vedere il recente passato del cinema italiano, no? Questa retrospettiva profondamente scelta degli esordi italiani dell'ultimo quinquennio, che poi è al centro anche dell'analisi del libro della Marsilio, Esordi italiani, che a mio parere è molto bello perché è molto completo e molto interessante, si è andata a unire a una selezione internazionale molto interessante, a una parte russa curata da Olga Strada e da una retrospettiva sul cinema turco, che insieme hanno fatto una mappa molto interessante di ciò che è il cinema italiano e di ciò che è il cinema europeo. Nelle mattine c'è stata una profonda discussione sullo stato delle cose del cinema, non però di quelle compassate vittimistiche, molto portata a chiedere più che a chiedersi qual è la situazione, e ne sono nate vivissime discussioni che secondo me potrebbero diventare anche atti da cui ripartire, insomma. Davvero ho trovato, si parla tanto del nuovo cinema, no? Dei ricambi generazionali, veramente ho trovato una nuova linfa che permettesse di interrogarsi in maniera nuova sul cinema, nuovo e non, su ciò che ci dobbiamo aspettare. Ecco, allora facciamo così, Boris, perché intanto ci ha raggiunto Pedro Ormocida, che è qui al telefono anche lui con noi. Ciao Pedro, ben trovato, ciao. Hai sentito la parte finale dell'intervento di Boris, insomma, che oltre a elogiare l'andamento di quest'anno del Festival di Pesaro, ne ha anche sottolineato l'importanza per la parte di dibattito, cioè di quello che ha provato a rimettere in moto per fare una fotografia del cinema italiano e anche di come provare a non disperdere quelle, come dire, anche quei successi, anche quei successi anche di botteghino importanti, insomma, per fare in modo che ridiventi un movimento. Da come l'hai capita tu, Pedro? Come si fa? Qual è, insomma, la tua convinzione che ti sei fatto dopo questi giorni del Festival Pesarese? Beh, diciamo che anche rispetto alla selezione dei film che abbiamo fatto, abbiamo tenuto conto delle varie proposte del cinema italiano, no? Quindi abbiamo scelto in base sicuramente anche alla qualità artistica dei film, ma anche abbiamo dato delle indicazioni su come anche poi il cinema potrebbe proseguire, quindi anche nel genere della commedia, che è il nostro genere principe. Naturalmente esempi come Scialla, oggi c'è Francesco Bruni che tra poco presenterò in sala, piuttosto che Smetto quando voglio, ma anche I primi della lista di Ron Johnson sono un tipo di commedia che innova proprio il genere della commedia. E poi c'è tutta questa parte molto forte, che è molto bella, anche molto legata all'idea che abbiamo noi del nuovo cinema, con ibridazioni del documentario, anche proprio registi che esordiscono da documentaristi nel cinema di finzione. E oggi anche questo è uscito dall'incontro che abbiamo avuto, un incontro sul quale però pende poi sempre questa spada di Damocle, purtroppo, della distribuzione delle opere, che è la parte più difficile ormai per qualsiasi cineasta di far vedere il proprio lavoro al pubblico. E allora, grazie a Boris Sollazzo e a Pedro Ormocida per averci raccontato un po' come sono andate le cose a Pesaro, al Festival del Nuovo Cinema Italiano, 50+1 era il titolo di quest'anno, proprio per raccontare i 51 anni di questo storico festival. Linea ancora la viabilità, fra poco torniamo insieme e si apre la grande mostra dei manifesti sul cinema milanese qui con Lapo De Carlo, che nel frattempo continuava a fare così con la testa, vuol dire che era d'accordo con tutto. Sono fra d'accordo, poco. Sono d'accordo. La Rosa Purpurea. Le note della la colonna sonora di Milano Calibro 9 di Fernando Di Leo, uno dei capolavori del genere poliziesco-poliziottesco all'italiana, poliziesco all'italiana, lo si è chiamato, sì, in tutti i modi. Ma noi abbiamo reinventato diversi generi, uno era lo spaghetti western e poi ovviamente il poliziottesco. Lo quindi... spaghetti police. Sì, abbiamo reinventato, abbiamo inventato il pulp. Assolutamente, infatti Quentin Tarantino, come sapete, è devoto seguace di Fernando Di Leo, che tra l'altro è mio compaesano, quindi come dire, siamo della stessa terra, anche se nati con diversi talenti e a molto molto molti anni di distanza. Vi diciamo questo perché, vi facciamo sentire questo perché proprio Milano Calibro 9 è uno dei manifesti che spuntano in grande evidenza anche dalla copertina del bel catalogo di Milanifesto, che è una bella idea, quella di mettere insieme i manifesti delle locandine d'epoca, e quindi con una grafica, con un segno che raccontano l'epoca di cui sono figli, in una grande mostra, e poi di mettere insieme anche i luoghi di ieri e i luoghi di oggi. Il centro qual è? I film girati a Milano o che comunque abbiano Milano non solo come sfondo ma un po' come protagonista, ed era quello che capitava proprio in questi film di polizia dove molto spesso c'era proprio la nostra città, la città di Milano, dietro le quinte e sullo sfondo. Tutto questo lo ha organizzato, lo ha pensato, lo ha ideato Lapo De Carlo, che oggi è venuto a fare l'ospite qui da noi, sì, la Rosa Purpurea. Per una volta. Raccontaci un po' come esce la figura di Milano da queste locandine, da questi disegni, da queste grafiche d'epoca. Ma innanzitutto teniamo presente il fatto che noi abbiamo scelto delle locandine degli anni 60, 70, 80, non a caso, perché c'era ancora la figura, la prospettiva artigianale che emergeva rispetto a quella di adesso, perché se noi andiamo a vedere le locandine attuali sono più fotografiche, più legate al marketing, quelle dell'epoca invece erano delle vere e proprie opere d'arte, ce ne sono alcune che sono straordinarie, hanno un valore immenso. Detto questo, abbiamo preso la collezione di Vito Elia, il quale ci ha gentilmente prestato e poi ovviamente ha seguito tutto l'allestimento di questa manifestazione, che tra l'altro andrà avanti fino alla fine di novembre, e che prende una Milano che è stata scelta in quel periodo, negli anni 60, 70, 80, ribadisco, proprio perché Milano era una città diversa rispetto alle altre città italiane, era una città metropolitana, una città quasi più vicina all'America, con la A maiuscola, appunto come noi l'immaginiamo, perciò la metropolitana, il lavoro, la gente che va veloce, i grattacieli, posto che poi magari non erano dei cose enormi, però sai, venivano scelte proprio in un modo anche un po' plateale, per cui Milano non veniva vista necessariamente dal cinema di quell'epoca come un luogo meraviglioso, al contrario, ci sono film come La vita agra, come Il posto, che identificano una Milano che al contrario è triste, che denuncia proprio il fatto che l'uomo viene dietro il lavoro, viene dietro la velocità, la modernità, che era il vero nemico che veniva indicato in quel tipo di cinema, e poi una Milano che al contrario aveva tanta malavita, e allora il poliziottesco trovava spazio e luogo in una città che di fatto mostrava proprio inseguimenti, fughe, brutti tipi, brutta gente, con tanti personaggi che poi abbiamo imparato a conoscere, per cui abbiamo imparato a conoscere Franco Gasparri, che dal fotoromanzo andava a debuttare nei poliziotteschi con Marche il poliziotto, abbiamo conosciuto la violenza vera, io ho visto un film e mi ha turbato persino per la violenza che esprime, perché Milano odia, la polizia non può sparare a qualcosa, a delle sequenze che oggi sarebbero vietate ai minori di 21 anni, perché è impressionante, ci sono delle sequenze, credo, truci da non raccontare, non sono neanche radiofoniche. E poi c'è Milano Calibro 9, ci sono dei personaggi che ovviamente hanno dato risalto a quel tipo di cinema, tra questi ho detto Umberto Lenzi che hai appena citato, ma ce ne sono anche tanti altri. Ovviamente in tutto questo quella Milano che emerge è una Milano piovosa, nebbiosa, triste, cupa, cioè è una Milano anche un po' diversa da quella che vediamo oggi. Però poi c'è anche quella da commedia, quella che arriva verso la fine della vostra mostra, c'è Yuppies, cioè, o anche Ratataplan in un certo senso, quella della pubblicità, quella che sta per entrare nella famosa Milano da bere. E infatti noi abbiamo avuto anche un padrino d'eccezione che è appunto Maurizio Nichetti, che tra l'altro ha due o tre dei suoi film che sono all'interno di questa collezione, perché noi siamo proprio a casa di Maurizio Nichetti, cioè al centro sperimentale di cinematografia di Milano in Viale Fulvio Testi 121, ed è lì che la mostra rimarrà fino alla fine di luglio, insieme a Bartolomeo Corsini, che invece ne è il direttore. Bene, noi partiamo da lì, e Maurizio Nichetti ovviamente ci ha anche raccontato come si è sviluppata, ma la cosa che ci è interessato di più è dare sviluppo e spazio sicuramente alle opere, a dei manifesti che erano veramente straordinari, ma soprattutto alla dimensione dei luoghi di Milano, perché molti milanesi, e non soltanto, non sanno che molte zone di Milano, non so, via Melchiorre Gioia, che molti conoscono come una via estremamente veloce, virtuosa, che magari era anche sempre stata così, al contrario c'erano i navigli che passavano. Io mi ricordo una scena di Ragazzo di campagna in via Melchiorre Gioia. Sì, sì, esatto. All'arrivo a Milano col trattore è proprio sotto i ponti praticamente. Ma poi ci metti anche Miracolo a Milano, Rocco e i suoi fratelli, dei film importantissimi. Ecco, la cosa che ci premeva era che i milanesi e comunque gli italiani, perché l'idea non è soltanto localizzata a Milano, l'intenzione di andare anche in altre città, sia quella di premiare proprio i luoghi dove il cinema è stato girato in Italia, perché di fatto non è mai stato fatto, scusa il gioco di parole. E quindi alla fine noi abbiamo Milano perché siamo qua, siamo nati da qua, ma il concetto è proprio quello di andare a valorizzare dei luoghi, di rendere anche il nostro paese un posto più divertente da vedere, perché è ricollegato ad elementi culturali, certo, che poi sono facilmente fruibili. Assolutamente. Allora ricordiamo Manifattura Tabacchi o Nuova Scuola di Cinema di Milano, Viale Fulvio Testi 121, adesso fino, sì, a luglio, ma poi a settembre all'area Pergolesi a Milano, in via Pergolesi, dove faremo anche una serata dedicata proprio ai luoghi di Milano con delle fotografie straordinarie di come erano attraverso i fotogrammi come era Milano negli anni 50, 60, 70 e come è adesso, quindi prima e dopo. E poi andremo ancora al Capitol 55 Ro, andremo a Desio, insomma a mostri Tittoni. Itinera, ecco, sì, quindi, sì, questa è l'idea, questa è una bellissima iniziativa. Allora Milano nei manifesti cinematografici, nella mostra Milanifesto ideata dalla Po De Carlo e poi portata in porto con tutte le persone che hanno collaborato e che avete sentito. E allora, detto di questo, noi andiamo avanti perché la trasmissione non si ferma qui, abbiamo ancora da raccontarvi qual era il film misterioso della settimana scorsa. Appagano. Chissà, appagano, ma davvero Gesù Cristo. Beh, erano bravi ragazzi anche quelli di Anime Nere, in un certo senso uno dei film che hanno aperto la stagione passando al Festival di Venezia in concorso, quello di Munzi, e che poi invece in un certo senso l'ha anche chiusa portando a casa un grande successo ai David di Donatello. Anime Nere, lo hanno indovinato, Jan Michael Nolan di Torino e Dario Bernardi saranno loro a ricevere il film in Blu-ray. È in collegamento con noi Giulio San Giorgio, ciao Giulio, dalla redazione di Film TV per raccontarci un po' questa versione un video di Anime Nere. Sì, ciao Franco, un saluto agli ascoltatori. Sì, non solo Gomorra, ma anche Anime Nere di Francesco Munzi, come dicevi, fresco vincitore di ben 9 David di Donatello e tra l'altro in procinto di essere ridistribuito in sala. E c'è anche però appunto in DVD e Blu-ray c'è Kigori in una versione tecnicamente accurata con backstage, intervista al cast e uno speciale dedicato all'esperienza della mostra di Venezia dove il film è stato presentato in concorso. Insomma, non ci sono assolutamente scuse tra la sala e l'home video per lasciarsi sfuggire uno dei migliori film italiani della stagione, che finora ha incassato meno di 1 milione di euro, quindi abbastanza poco. Un altro romanzo criminale, una storia di formazione e deformazione nella malavita organizzata, che conferma l'itinerario molto particolare di Francesco Munzi, che è un itinerario fatto di noir sociale, di impianto realista, e che trova un equilibrio tra un cinema dal respiro documentaristico, in grado di leggere e studiare una realtà come quella del luogo di una profonda Calabria di matrice ndranghetista, e il respiro tragico, quasi da tragedia greca, di un gangster movie che assomiglia tanto a Fratelli di Abel Ferrara. Film assolutamente da recuperare. E allora recuperiamolo, come ha detto giustamente Giulio, c'è sia il cinema che in un video, quindi potete veramente sbizzarrirvi. Andiamo a dare un'occhiata a quello che passa invece in TV, perché mercoledì 1 luglio alle 23 sulla 7 è uno dei film forse che hanno più segnato a fondo la cinematografia internazionale degli ultimi anni. Stiamo parlando di Drive. Sì, il 1 luglio alle 23 sulla 7, lui è uno stunt a Hollywood, è un meccanico in un'officina molto malmessa, Driver si chiama, e si presta anche a fare l'autista per una serie di rapine notturne. Quando però incontra Irene le cose cambiano. Ryan Gosling, il protagonista, scelse Nicholas Winding Refn come regista, e questo è il film della consacrazione del regista danese, un mix veramente inatteso, in esaltante equilibrio tra il Driver di Walter Hill e Strada doppia corsia di Monty Hellman, quindi tra la violenza di uno Scorsese aumentato, esasperato, e l'algore secco di un Jean-Pierre Melville, e addirittura l'allucinato feticismo di Kenneth Anger. Insomma, un mix noir che insieme è freddo, romantico, schematico e ricco di paradossi, un grande film. E allora, questo per quanto concerne Drive, 1 luglio, 23, la 7, venerdì 3 luglio alle 3.45 di notte su Rai Movie c'è Distretto 13, Le Brigate della Morte. Sì, per dirlo con con una parola, Distretto 13, L'ora della morte è un capolavoro, uno dei tanti e tra i più alti di John Carpenter, regista che ha sempre fatto del cinema d'orrore il luogo per raccontare un'epoca e un paese, l'America. Qui trasforma la sua pellicola preferita, Un dollaro d'onore di Howard Hawks, in un archetipo narrativo e ne replica i tempi con uno stile neoclassico nella storia di un condannato a morte che si trova persino sotto assedio. L'estetica del film è veramente dirompente, ma anche, lo è anche la sua ideologia, dato che lo stile del western viene utilizzato per rendere visivamente concreto l'incubo e la paranoia urbana che dominano il mondo contemporaneo. E allora venerdì 3 luglio alle 3.45 su Rai Movie c'è Distretto 13. Giulio, una piccola segnalazione anche per Laura Antonelli, perché è stata una settimana dove ci hanno lasciato tanti volti importanti del cinema. Ci sarà martedì 30 giugno su Rai Movie durante la notte la possibilità di rivedere Laura Antonelli? Sì, con un film di Marco Vicario che si intitola Moglie amante, un film del 1977, non uno dei migliori film con l'Antonelli, ma sicuramente uno dei suoi ruoli più difficili e sicuramente in cui la sua arte attoriale risalta di più, sebbene il film non sia assolutamente riuscito. Tra l'altro in questa settimana Iris ha fatto un ulteriore omaggio all'Antonelli e la settimana successiva, come potete leggere su Film TV in edicola il martedì prossimo, ci saranno altri film dedicati a questa attrice. Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana. Là possiamo in chiusura, però ricordiamo altri due nomi, abbiamo detto settimana nella quale ci hanno lasciato anche James Horner, l'autore delle musiche di Titanic, tanto per dirne una, sì. Insomma, vincitore di premi Oscar per questo, e Remo Remotti, uno dei volti che eravamo abituati a vedere nei film di Nanni Moretti, in Bianca, in Sogni d'Oro, in Palombella Rossa, insomma sono facce, volti, il cinema è fatto di questo, che ci hanno lasciato, grazie al cielo c'è il cinema, perché sì, potremo rivederli quando vogliamo. I caratteristiche moltissimi noi non conoscono molto bene, poi magari vanno al cinema e dicono ma chi è quello, l'ho già visto, ma non sanno dargli un nome. Ecco, in questo caso Remo Remotti poteva anche essere uno di quelli. Assolutamente. Allora, noi siamo giunti in fondo alla nostra corsa, grazie a Gala, che insomma è uno scioglilingua che mi porterò dietro per sempre e anche a Gianmarco Ferronato in regia, Lapo De Carlo, grazie per essere stato qui con noi. Milani Festo, ricordiamo Milani Festo, grazie a te Franco, io ringrazio chi mi ha aiutato anche in questa operazione, cioè Tabata Caldironi, Silvio Bertolotti e Vito Elia. Ebbene, ci sentiamo la settimana prossima, vi ricordo saremo in onda dall'Expo e andremo in onda qui su Radio 24 domenica alle 14, ma registreremo sabato alle 14 proprio dall'Expo, quindi chiunque volesse venire lì, venirci a trovare, magari ricevere qualche regalo in cambio, chissà, cioè, siamo lì, la Rosa Purpurea viene registrata nell'Expo di Milano alle 14 di sabato 4 luglio, ma andrà in onda domenica 5 luglio sempre alle 14 qui su Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisi. Thank you.